sicuramente è positivo nonostante i fermi, nel senso che comunque si è riusciti a mostrare un'opposizione alla guerra e soprattutto opposizione a questa parata militare che soprattutto in questo momento è veramente qualcosa di indecoroso, indegno, offensivo, non trovo neanche i termini per definirla. È stato anche, voglio sottolineare che tra l'altro un gruppo di attivisti, presentezza 4 persone, sono proprio riuscite a entrare dentro la parata davanti ai carri armati, a fermarli con una bandiera da pace e con i loro corpi, un atto simbolico che però era importante da fare, e mentre invece altri gruppi sono stati fermati mentre tentavano di scavalcare il transenne per entrare nella parata e sono stati fermati in una maniera molto brutale, soprattutto un gruppo di donne disobbedienti che sono state fermate in una maniera estremamente brutale e violenta, molto eccessiva rispetto al fatto che stavano semplicemente con delle bandiere della pace in mano, e dopodiché sono state accompagnate in questo non solo loro ma anche gli altri gruppi che intanto erano stati fermati, sono state più o meno una ventina di denunce per manifestazione autorizzata, e tra l'altro altra cosa che vorrei sottolineare è il fatto che per esempio io stavo con la telecamera per fare dei reportage per Global TV e sono stata comunque buttata a terra insieme a degli operatori della 7 a cui è stata tra l'altro rotta anche la telecamera, e poi sia a me che a loro è stata presa la videocassetta. Allora dopo 2 ore è stata tornata, a me non è mai stato tornato il video, cioè quindi il girato. E questa cosa io penso che è grave soprattutto dal punto di vista che si cercava di nascondere che dentro quella giornata, quindi che non passassero le immagini della contestazione, e questo è una cosa abbastanza preoccupante rispetto all'informazione proprio, anche se poi in realtà appunto con tutte le pressioni poi del materiale c'erano molti altri operatori, comunque insomma i telegiornali l'hanno raccontato e non si è riusciti a censurarlo del tutto, c'è stato un tentativo molto brutale di censura dell'informazione, questo è anche un altro elemento. E diciamo che la giornata complessivamente comunque è, credo, rispetto al fatto che si voleva lanciare un segnale che dicesse un no totale, completo alla guerra, credo che da questo punto di vista è una giornata che appunto è riuscita a centrare questo obiettivo. La cosa che un po' allarma è questo atteggiamento delle forze dell'ordine anche in vista del 4 giugno, perché appunto le cose che appunto, io direttamente, una testimonianza proprio diretta e oculare, ho potuto vedere una reazione estremamente eccessiva rispetto a quello che si stava facendo.